Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I dati sono insopportabili. Non è un problema solo italiano, ma i dati sono insopportabili. È insopportabile sapere che ogni due giorni e mezzo, anche quel mezzo, no? Nel nostro paese una donna viene uccisa. Una donna viene uccisa per mano di chi in teoria dovrebbe amarla, ogni due giorni e mezzo. Una cadenza proprio macabra. Una strage senza fine, insomma, che continua, come ha confermato la Presidente della Camera, l'avete sentita, Boldrini, a proposito così di un ennesimo bilancio che si fa sulla violenza contro le donne a due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che è il prossimo 25 novembre, a cui dedicheremo ancora molto spazio. Poi anche domani naturalmente ne parleremo, stasera ci concentreremo anche su altre cose, la tragedia di Rigopiano. Ci sono nuovi indagati su quella sciagura incredibile avvenuta lo scorso 8 gennaio con 29 morti, vi ricordate, abbiamo seguito ora per ora. E poi un'altra vicenda, insomma, che è all'attenzione, diciamo, a livello internazionale, che si sta sviluppando anche quella di ora in ora, è la tragedia del sommergibile argentino che è scomparso, e sembra che della Marina Militare argentina dicano che effettivamente poco prima che scomparissero i segnali definitivamente dati da sommergibile ci sia stata un'esplosione, per cui calerebbero un po' le speranze. Ce ne occuperemo, così come cercheremo invece poi di sollevarci un po' lo spirito con, per esempio, il calcio. Ci sono squadre italiane in Europa League, la Lazio ha appena pareggiato col Vitesse 1-1, insomma tante cose di cui parlare come sempre e che voi potete commentare con la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, sulla quale potete scrivere le vostre riflessioni, oppure le inviate al numero per WhatsApp ed SMS che è 349 238 6666. Prima di tutto però riassunto della giornata. La tragedia di Rigopiano, dalla procura di Pescara altri 23 avvisi di garanzia, uno anche per l'ex prefetto e per il presidente della provincia. Previdenza, nel 2019 stoppa l'aumento dell'età pensionabile per 14.600 persone, presentato l'emendamento del governo, costerà 300 milioni. Sicilia, indagato per riciclaggio Genovese Junior dopo i guai del padre, il più votato nelle recenti elezioni regionali. Violenza sulle donne, 67enne uccisa in un parco a Milano e per uno stupro di gruppo condannato a 9 anni l'ex calciatore del Milan Robinho. E alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza di genere, secondo un'indagine presentata oggi, il 17% dei ragazzi trova accettabile la violenza sulle donne. Vaccini, l'anatema del commissario europeo alla salute sui Novax, visitano le tombe dei bimbi morti. Il sommergibile argentino disperso, annuncio della Marina Argentina, ci fu un'esplosione nel sottomarino, crolla la speranza, la rabbia e il dolore dei familiari. Acquisti, domani un Black Friday da 1,5 miliardi, si ferma Amazon a Piacenza per sciopero, boom di acquisti su smartphone. Calcio, Europa League, Milan e Atalanta, basta un punto per approdare i sedicesimi. La Lazio contro il Vitesse ha pareggiato 1-1. E naturalmente, dicevo, per sollevarci gli anni, non solo calcio, non, magari non interessa a tutti, però questo Black Friday di cui parleremo, anche per capire da dove viene, che cosa comporta in Italia. Ma partiamo dalla tragedia di Rigopiano, nella nuova tranche dell'inchiesta sulla valanga del crollo dell'hotel in provincia di Pescara, in cui a gennaio morirono 29 persone, la procura di Pescara ha emesso 23 avvisi di garanzia. Tra i destinatari anche l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, trasferito a Roma nelle scorse settimane, e tra gli indagati poi anche il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e numerosi dirigenti pubblici. Poi ripercorreremo un po' i fatti di questa terribile tragedia e anche, appunto, entreremo più nel dettaglio di questa nuova tranche dell'inchiesta. Ci sono invece poi due buone notizie sulla pressione fiscale che diminuisce e arriva il reddito di inclusione. Le famiglie con i requisiti necessari avranno a disposizione massimi 485 euro al mese, circa 5.800 euro l'anno per 18 mesi, ma dovranno partecipare a un progetto di reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. Così si legge nella circolare INPS che annuncia l'avvio dall'1 dicembre delle domande per il reddito di inclusione. Destinatari, i nuclei con ISEE inferiore a 6.000 euro e un valore degli immobili, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima battuta, famiglie con minori, minori, disabili, donne in gravidanza 4 mesi dal parto e over 55, disoccupati. E se la prima buona notizia arriva dall'INPS, la seconda dall'OCSE. L'organizzazione parigina pubblica i dati sulla pressione fiscale, calata in Italia al 42,9% del PIL nel 2016 rispetto al 43,3% del 2015. Il bel paese si conferma però alla sesta posizione, prima la Danimarca con la maggiore imposizione fiscale, ultimo il Messico. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso occupiamoci... Scusate, ogni tanto la voce di lavoro e previdenza dall'INPS, fotografia, quindi avete sentito sulla dinamica dei contratti di lavoro, sono 1.000.019 quelli a tempo indeterminato, attivati nei primi 9 mesi dell'anno, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra attivazioni e cessazioni, il saldo dei nuovi contratti è positivo per 740.809 unità. Sul fronte delle pensioni è arrivato intanto l'emendamento del governo alla manovra. Il governo ha messo nero su bianco le deroghe all'aumento dell'età pensionabile a 67 anni nel 2019, illustrate ai sindacati ad inizio settimana. Saranno escluse dall'automatismo allora 14.600 persone impegnate in lavori gravosi. Per rientrare nei requisiti bisogna aver svolto queste particolari mansioni da almeno 7 anni, nei 10 precedenti il pensionamento e avere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Viene istituita inoltre una commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. Il pacchetto pensioni presentato dall'esecutivo come emendamento alla legge di bilancio vale a regime 300 milioni e non avrà, spiegano dal Ministero del Tesoro, alcun impatto sulla sostenibilità dei conti pubblici. Le novità introdotte da Palazzo Chigi, tuttavia, e già bocciate dalla CGIL vengono respinte dalle forze politiche a sinistra del Partito Democratico. MDP, Sinistra Italiana, possibile campo progressista di Pisapia, saranno infatti in piazza il prossimo 2 dicembre a fianco della Camusso. Altro fronte, quello del pubblico impiego, via libera dal ministro Madia all'iter per la stabilizzazione di 50.000 precari storici. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di Sicilia, perché da lì arriva un'altra tegola sulla famiglia genovese. È indagato il 19enne Luigi, appena eletto all'Assemblea regionale siciliana. Indagato per riciclaggio Luigi Genovese, 21 anni, recordman di preferenze alle ultime regionali siciliane, neoeletto con Forza Italia, figlio dell'ex deputato Franco Antonio, condannato a 11 anni per corruzione. È il quarto neodeputato dell'Assemblea regionale siciliana a finire inquisito. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Messina, Maurizio De Lucia, ed è a carico dell'intera famiglia genovese, padre, figlio, madre e altri familiari, a cui sono stati sequestrati complessivamente 100 milioni di euro in società di capitali, conti correnti, beni mobili e immobili e azioni. Il 21enne avrebbe avuto un ruolo determinante nelle operazioni societarie fatte dal padre Franco Antonio, pure lui indagato, per riciclare complessivamente circa 30 milioni di euro. I reati ipotizzati a carico dei due e di altri familiari sono riciclaggio ed evasione fiscale. Le indagini hanno consentito di trovare fondi esteri per un ammontare pari a oltre 16 milioni di euro, schermati da una polizza accesa attraverso un conto svizzero presso la società Credit Suisse Bermuda. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tema purtroppo sempre attuale della violenza sulle donne: nei primi 10 mesi del 2017 sono state 114 le donne vittime di omicidio da parte di violenza maschile. Triste consuntivo che conferma l'andamento registrato nel 2016, lo evidenzia il quarto rapporto di Eures sul femminicidio in Italia. Il numero più alto si ha in Lombardia, seguita dal Veneto. Il 76,7% di questi è maturato naturalmente in un contesto familiare affettivo, come sappiamo. Numeri insopportabili, avete sentito prima, ha detto la Presidente della Camera Boldrini. I dati sono insopportabili. Non è un problema solo italiano, ma i dati sono insopportabili. È insopportabile sapere che ogni 2 giorni e mezzo, anche quel mezzo, no? Nel nostro paese una donna viene uccisa. Una donna viene uccisa per mano di chi in teoria dovrebbe amarla, ogni 2 giorni e mezzo. Una cadenza proprio macabra. E se è vero che gli autori delle violenze più gravi, fisiche e sessuali, sono prevalentemente partner o ex partner, un altro ambito dove si manifesta con frequenza la violenza di genere è quello lavorativo. 1.403.000 donne hanno subito nel corso della loro vita lavorativa in Italia molestie o ricatti sessuali sul posto di lavoro. La stima è fornita dall'Istat alla Commissione d'inchiesta sul femminicidio. E secondo l'indagine nazionale Afrodite, chiusa lo scorso anno da Modavi Onlus e riportati dalla presidente nazionale dell'organizzazione Maria Teresa Bellucci, oggi a margine della giornata sul dibattito Amore non ha lividi, promosso dal magazine Pink Italia a Roma, erano presenti anche alcuni esponenti del governo, il 17% dei ragazzi, secondo questa ricerca, trova accettabile la violenza sulle donne, il 27,50% la giustifica in caso di tradimento della donna, il 18% la ritiene una reazione giustificata se c'è stata una provocazione da parte di lei. Quindi immaginatevi che cambiamento culturale ci può essere se i ragazzi la pensano così. E a due giorni appunto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, una donna di 67 anni è stata uccisa questa mattina in un parco pubblico nella zona nord di Milano. Il primo a dare l'allarme è stato un passante, all'arrivo della polizia era ancora viva e dei soccorsi, ma le manovre di rianimazione non sono state sufficienti, è morta poco dopo, ferite profonde alla gola. La vittima potrebbe aver fornito ai primi soccorritori elementi utili alle indagini, intanto sono state acquisite le immagini di una telecamera nelle vicinanze. Sempre a Milano il tribunale ha condannato l'ex giocatore del Milan Robinho a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese, all'epoca aveva 22 anni, avvenuta in una discoteca di Milano nel gennaio 2013. Robinho però è attualmente in Brasile dove gioca per l'Atlético Mineiro e se non ci estradano Battisti, ex terrorista, super ergastolano, figuriamoci se estradano Robinho e si fa questa condanna a 9 anni. All'estero, un disegno di legge del Parlamento iracheno propone di abbattere l'età minima del matrimonio e di fatto permettere di dare in sposa persino una bimba di 9 anni. Una proposta in Iraq che, se approvata, porterebbe il paese al Medioevo, come sostengono attivisti iracheni indignati denunciando una licenza per violentare le bambine. E parliamo di sottomarino argentino. La Marina Militare Argentina dice, ammette effettivamente che nel giorno in cui poi non si sono avuti più segnali, lo scorso 15 novembre, c'è stata probabilmente un'esplosione. La conferma da parte della Marina Militare Argentina di una anomalia idroacustica dovuta ad un'esplosione all'interno del sommergibile Ara San Juan lascia poche speranze, così come le immagini dei familiari in lacrime dei 44 membri dell'equipaggio che hanno avuto un incontro nella base navale di Mar del Plata per le nuove informazioni sulla vicenda. Nel punto stampa a Buenos Aires, il portavoce della Marina, Enrique Balbi, ha puntualizzato che le ricerche continuano con tutti i mezzi per avere una prova concreta su dove sia il sottomarino. A bordo anche la prima donna membro di un equipaggio di un sommergibile in America Latina, che nella sua ultima telefonata alla famiglia aveva commentato il cattivo stato di funzionamento dell'unità. Anche il radarista aveva riferito di problemi già dal 2014, dopo i primi lavori di manutenzione. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci torniamo su questa vicenda. Intanto, per quanto riguarda la Germania, invece ci sono ore potenzialmente cruciali per la politica tedesca dopo il fallimento dei negoziati per una coalizione tra Merkel, liberali e verdi. Poi vedremo se ci sono aggiornamenti entro questa sera. Vaccini, nuovo attacco dell'Unione Europea ai movimenti Novax. Mi piacerebbe invitare la gente di questi movimenti a visitare le tombe dei bambini morti perché non vaccinati e a riflettere su ciò che fanno. Così ha detto il commissario alla salute europea Adriukatis, secondo il quale queste persone hanno la responsabilità morale, dice, di quanto succede ai loro figli e non capiscono che cosa stanno facendo. Per gli acquisti, il tema degli acquisti, domani è il Black Friday, il venerdì nero da 1,5 miliardi, questa è la stima. Si ferma intanto Amazon a Piacenza, scioperano i dipendenti per avere un miglior trattamento economico, intanto si registra un boom di acquisti su smartphone, anche su questo poi torneremo. E poi direi che invece subito andiamo da Giovanni Capuano per sentire, a parte la Lazio che abbiamo detto che ha pareggiato, le altre squadre in Europa League che fanno, Giovanni? Eccomi Roberta, ciao. Beh, sono due in campo, siamo in entrambe le situazioni intorno al 12° minuto del primo tempo, sono tutte e due ferme sullo 0-0. Allora partiamo da San Siro, dove il Milan gioca contro l'Austria Vienna, Milan che questa sera cerca la qualificazione e per farlo con 90 minuti di anticipo deve vincere contro gli austriaci oppure deve pareggiare e attendere il risultato dell'altra partita, quella tra EK Atene e Rijeka, e il Rijeka, se non vince in trasferta, a quel punto è sufficiente per la squadra di Montella un pareggio. Milan che che è partito bene in questi primi 12 minuti, proprio un paio di minuti fa ha sfiorato la rete del vantaggio con un colpo di testa di Cutrone di poco sopra la traversa. Milan che gioca con un 3-5-2 con almeno 7-8 potenziali titolari, segno che Montella questa sera ha bisogno di non sottovalutare questa partita che arriva in un momento complesso, complicato di gestione della stagione dei rossoneri, e quindi c'è bisogno di un buon risultato di chiudere la pratica della qualificazione. Sta andando meglio l'Atalanta, che proprio pochi istanti fa si è portata in vantaggio, 13esimo minuto, il gol lo ha segnato Petagna. Atalanta che gioca in trasferta in Inghilterra sul campo dell'Everton, Atalanta che si qualifica con un pareggio ma anche perdendo se l'Apollo nell'altra gara non dovesse vincere in Francia contro il Lione. In questo momento i bergamaschi però stanno vincendo per 1-0, la rete l'ha segnata Petagna, dunque Atalanta che sta coronando il sogno della qualificazione in questo girone che ha disputato in maniera mirabile in questo suo ritorno dopo 20 anni nell'Europa del calcio. Dunque i due risultati a San Siro, 0-0 tra Milan e Austria-Vienna, a Liverpool 1-0 dell'Atalanta sull'Everton, l'1-1 di Lazio-Vitesse, l'hai già detto te, la Lazio è comunque qualificata, lo era già dal turno precedente. A te Roberta. Grazie Giovanni Capuano, a dopo. Intanto adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, poi cominciamo a sentire gli ospiti sui vari argomenti, le vostre riflessioni stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure mandare i vostri commenti anche al 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp. Elena, per esempio, a proposito del Black Friday, dice: no, io non so da dove viene l'espressione, ne parleremo stasera, sono ansiosa di saperlo, e no, non andrò a fare shopping perché lavoro e per quanto riguarda acquisti su Amazon e altro non mi piace. E naturalmente su questo no, ci sono tanti pareri discordati, c'è chi compra costantemente su Amazon o comunque online e chi non ha mai fatto un acquisto neanche di una penna. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ho già riassunto poco fa, insomma, nel racconto sintetico della giornata, come sempre all'inizio. Ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, siamo insieme sino alle 22, Roberta Giordano con voi. Adesso è momento di cominciare a scendere nel cuore di alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Vedo molti vostri messaggi sulla questione del Black Friday, di cui parleremo poi più tardi. Qualcuno che dice, Alessandro dice: io non acquisterò più su Amazon finché non sarò certo che rispetti in pieno la dignità di chi ci lavora. Beh, comunque queste cose poi portano, no, a pressare un po' e a migliorare, anche se oggi un alto dirigente di Amazon diceva: ma noi in realtà gli diamo un'assicurazione sulla salute, gli permettiamo anche di fare abbonamenti gratis alla palestra e altri servizi. Insomma, non ci sono le due versioni, però sappiamo che chi ci lavora pesantemente. Ne parleremo dopo, però adesso parliamo di cose un po' meno, rilassanti o divertenti. Tra pochissimo parleremo di una nuova tranche dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Intanto vi ricordo quali sono anche le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente alle 21. Per l'appunto la sciagura di Rigopiano, di cui parleremo tra pochissimo, ci sono 23 nuovi avvisi di garanzia. Poi per la previdenza, nel 2019 stoppa l'aumento dell'età pensionabile per 14.600 persone, e presentato questo emendamento del governo costerà 300 milioni di euro. E poi in Sicilia, indagato per riciclaggio Genovese Junior, che è Luigi Genovese, dopo i guai del padre era stato il più votato nelle recenti elezioni regionali. Violenza sulle donne, 67enne uccisa in un parco a Milano, e per uno stupro di gruppo condannato a 9 anni l'ex calciatore del Milan Robinho, che però gioca in Brasile. E poi a 2 giorni della giornata internazionale contro la violenza di genere, secondo un'indagine presentata oggi, il 17% dei ragazzi trova accettabile la violenza sulle donne. Vaccini, l'anatema che arriva dal commissario europeo alla salute sui Novax, dice: visitino le tombe dei bimbi morti. Il sommergibile argentino disperso, ci occuperemo anche di questo perché sembra purtroppo che cali la speranza. E poi per gli acquisti, domani un Black Friday da 1,5 miliardi, si ferma Amazon a Piacenza per sciopero, cioè boom di acquisti su smartphone. E poi per il calcio in Europa League ci sono Lazio che ha pareggiato 1-1, e intanto proseguono Milan e Atalanta. Pescara 118, pronto? Hotel Rigopiano Farina, c'è stata una bufera, l'hotel... Signore? Farina. Ho capito, l'hotel Rigopiano, ma che è successo all'hotel Rigopiano? Non c'è più, siamo solo io e l'altra persona. Non c'è... Ci sono dei dispersi. Ci sono dei dispersi. C'è stata la nostra langa, non c'è più niente. Vi ricordate questa drammatica telefonata che abbiamo sentito e fatto sentire più volte allora lo scorso 8 gennaio quando uno dei superstiti della tragedia di Rigopiano chiamò un cuoco, chiamò il suo ristoratore, il suo capo, e questo ristoratore chiamò a sua volta il 118, come avete sentito in questa telefonata, però non fu creduto e i soccorsi effettivamente arrivarono piuttosto in ritardo. Vi ricordate, morirono 29 persone sotto questo crollo dell'hotel di Rigopiano in provincia di Pescara, in Abruzzo, dovuto sia alle scosse di terremoto che a enormi quantità di neve che caddero in quei giorni, e anche la sua posizione, insomma, che non era ortodossa, in realtà non avrebbero dovuto permettere di costruire lì quell'hotel. La Procura di Pescara, che indaga su quella tragedia, ha emesso 23 nuovi avvisi di garanzia tra gli indagati, e qui saluto Simona De Leonardis, che è giornalista del quotidiano Il Centro, quotidiano abruzzese. Buonasera Simona. Tra gli indagati, dicevo, c'è il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e il sindaco di Farindola, dove era questo hotel appunto, sì. Ilario Lacchetta, no? Ci sono vari... Sì. Loro due già erano già stati indagati nei precedenti avvisi di aprile, della fine di aprile. Diciamo che la novità questa volta è il prefetto di Pescara, che attualmente è andato via da una settimana, e possiamo dire l'ex prefetto. Sì. E a lui viene contestato il ritardo con cui attivò il tavolo della protezione civile, che avrebbe dovuto fare il conto dei mezzi che c'erano e di come muoversi. In realtà lui scrive che lo apre il 16 gennaio, e però secondo la procura questo tavolo entra in azione a mezzogiorno del 18 gennaio, quando c'erano già state le scosse e quando le richieste di soccorso da parte dell'albergo andavano avanti da ore. Già. Senti, però Simona, a parte appunto quei momenti, soccorsi arrivati in ritardo, è chiaro da questa inchiesta, almeno per il momento, insomma, quello che suppongono i magistrati è che l'hotel resort di Rigopiano non doveva essere costruito lì dov'era. Sì, su questo stanno... il lavoro è ancora aperto, nel senso che bisogna ancora indagare. Quello che viene contestato in questo momento è che il centro benessere, che poi è l'unica cosa che non è crollata ed è stata realizzata nel 2007, non poteva stare lì perché quell'area era soggetta a un vincolo paesistico di cui non è stato tenuto conto. E siccome gran parte degli ospiti della struttura erano lì proprio per il centro benessere, è chiaro che anche se il centro benessere non è caduto, però è causa di questa tragedia in qualche modo, perché ha attirato le persone lì. Questo sostiene la procura. Simona, fra l'altro, tragedia della tragedia, di recente si è suicidato un ex comandante della Guardia Forestale, se non sbaglio. Sì, lui adesso era generale, Guido, sì. Conti, generale dei Carabinieri Forestali, in Umbria. Però all'epoca di quando ci sono stati questi permessi per concedere la ristrutturazione dell'hotel, lui era comandante provinciale di Pescara. E si è suicidato perché, anche se non era lui aver dato delle concessioni per cui appunto è successa questa tragedia, dice: avrei potuto fare qualcosa di più? Sì, lui dice: ho firmato delle prescrizioni che comunque venivano dopo dei permessi già concessi, quindi lui ha semplicemente dato tutte le prescrizioni che poteva dare, quindi lui tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Però il suo rimpianto era, già che mi sono capitate quelle carte tra le mani, potevo capire qualcosa. E invece me le sono fatte sfilare davanti senza porre particolare attenzione, ma non gli era richiesto in quel momento. Però ha sentito questo insopportabile senso di colpa, purtroppo. Senti Simona, quindi per chiudere, ci sono vari filoni di inchiesta su questa sciagura di Rigopiano. Sì, c'è da parte della regione la non realizzazione della carta da pericolo delle valanghe. Mm. Che prevedeva la legge, che ordinava una delibera di giunta regionale che nessuno ha fatto. Questa carta di prevenzione, di localizzazione del pericolo valanghe avrebbe individuato che lì a Rigopiano non si poteva costruire, o comunque se c'era una struttura la dovevi chiudere d'inverno, se non mettendo delle difese alla montagna. Mm. Poi c'è appunto la questione dei soccorsi, del tavolo della protezione civile, dell'albergo stesso. E comunque di fatto c'è ancora dell'altro da verificare, questo ci hanno lasciato capire. Non è finita qui, insomma. Certo, no, ci sono ancora molte cose da chiarire e da fare su questa morte, sì, di 29 persone così assurda e così terribile. Grazie Simona De Leonardis del quotidiano Il Centro. Ciao. Grazie Simona. Grazie a voi, buonasera. Buon lavoro. Vari vostri messaggi, vedo adesso, sì, perché non parlate dei dipendenti di questo o dell'altra società o di questo o dell'altra catena di distribuzione, adesso non è il momento, si parlava di Black Friday e poi ognuno dirà la sua su possibili acquisti, su se gli piace o meno acquistare online o se approfitterà di queste promozioni, di questi sconti che dovrebbero esserci domani, perché è una cosa importata dagli Stati Uniti e scopriremo anche in che senso, da dove nasce esattamente. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, se volete con voi la giusta conduttrice, Roberta Giordano. Abbiamo parlato quindi di molte notizie e adesso ci occuperemo tra poco di questo fenomeno che sta ormai arrivato anche in Italia, del Black Friday. Poi parleremo del sottomarino disperso in Argentina che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Ci sono tanti paesi che stanno collaborando alle ricerche internazionali. E poi abbiamo anche fatto cenno al bilancio che ha fatto oggi la Presidente della Camera Boldrini sulla violenza contro le donne. Sapete che tra due giorni è la giornata internazionale che è dedicata alla violenza sulle donne. E vi leggevo anche, vi raccontavo di questa indagine che è stata presentata oggi a Roma, c'era anche il sottosegretario alla giustizia Ferri, secondo la quale il 17% dei ragazzi trova accettabile la violenza sulle donne, il 27,50% la giustifica in caso di tradimento e il 18% la ritiene una reazione giustificata se c'è stata una provocazione da parte di lei. Ecco, i vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Giorgio che dice: se le statistiche di questa indagine sono prese bene, parlo del campione, è veramente sconfortante, significa che la nostra società deve fare molti passi, ancora troppi, per quanto riguarda gli interrogatori delle vittime, comunque una cautela dovuta. Marco dice: l'unico modo, scusate, è perseverare nell'educazione delle persone sulle donne, ma soprattutto sugli uomini, ognuno nel proprio piccolo deve continuare a lavorare. Dina dice: di nuovo non resta che l'educazione e l'esempio da parte della famiglia nei confronti di figlie, figli e nipoti, eccetera. Laura scrive: le giovani americane vittime di stupro a Firenze sono state interrogate per 12 ore, 12 ore sono una tortura, le vittime hanno dovuto ricevere lo stupro fino allo sfinimento, rivivere lo stupro, scusate, come possono i giovani comprendere che stuprare è sbagliato se il processo si fa alle vittime? Poi Francesco: c'è ancora un gran lavoro sociale e culturale da compiere, decisamente. Insomma, tanti vostri messaggi su questo argomento. Adesso però cambiamo per un po' tema. Vi ricordo solo molto velocemente, per chi non avesse acceso puntualmente alle 21, quali sono i fatti principali. Di violenza alle donne abbiamo appena parlato e tra l'altro è stata uccisa una 67enne in un parco a Milano questa mattina per uno stupro di gruppo, poi è stato condannato a 9 anni l'ex calciatore del Milan Robinho. La tragedia di Rigopiano, abbiamo appena parlato con una collega dell'Abruzzo, dalla Procura di Pescara, altri 23 avvisi di garanzia, uno anche per l'ex prefetto e per il presidente della provincia. Previdenza: nel 2019 stop all'aumento dell'età pensionabile per 14.600 persone, è stato presentato questo emendamento dal governo, costerà 300 milioni. E poi per la Sicilia, indagato per riciclaggio Genovese Junior, dopo i guai del padre, è stato il più votato nelle recenti elezioni regionali. Vaccini, arrivi alla natura. tema del commissario europeo alla salute sui Novax, che dice visitino le tombe dei bimbi morti, il sommergibile argentino disperso, ne parleremo più tardi. E poi per il calcio, Europa League, la Lazio ha pareggiato 1-1 col Vitesse, adesso in campo ci sono sempre Milan e Atalanta. E adesso strappiamo il nostro Marco Valsania a New York, corrispondente del Sole 24 Ore, dal suo tacchino che sta consumando per il Thanksgiving, è vero Marco? Sì, il tacchino cuoce. Ah, cuoce ancora. Il tacchino è un animale che cuoce lui. Già, che poi lì che ore sono, scusami, adesso che ore sono? Adesso sono le 3:30. Le 3:30, allora. Thanksgiving ha questa tradizione un po' di una specie di pasto a metà. Che si fa a che ora? A che ora si mangia? Non ti sento più, Marco. È finito nel tacchino, Marco Valsania? Vediamo se riusciamo a richiamarlo. Ecco, lo richiamiamo perché oggi appunto è il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, una lunga tradizione, una festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti d'America il quarto giovedì di novembre, ed è un segno di gratitudine verso Dio, così è nato, per il raccolto, per quanto ricevuto. Però tra pochissimo parliamo invece di un'altra tradizione che dagli Stati Uniti è arrivata in Italia. Questa rimane per loro, per il giorno del ringraziamento. Noi abbiamo altri riti cristiani o pagani o cattolici eccetera, questo invece, il giorno del ringraziamento, è tipicamente degli Stati Uniti. Abbiamo recuperato Marco Valsania? Ancora no? Si vede che c'è questo problema, perché volevo chiedere a Marco Valsania da dove viene questa definizione del Black Friday, che appunto significa venerdì nero. Uno pensa che abbia un'accezione negativa, per esempio. Vediamo, c'è un'ascoltatrice che forse dà lei la risposta. Mi pare che fosse qui tra i vari messaggi, vediamo se lo ritrovo, eccolo qui. Serena dice: ammetto, no, la mia ignoranza in materia, pensa che fino a qualche giorno fa non sapevo dell'esistenza di questa pratica consumistica, la corsa allo sconto più in vista, non parteciperò all'evento, andrò a caccia di uno sconto in un altro momento, gennaio forse. Niente, c'è il problema, non riusciamo a raggiungere Marco Valsania, e quindi saluto immediatamente Francesco Morace, che è sociologo dei consumi. Buonasera professore. Buonasera. Bene, lei la sentiamo meglio per il momento, speriamo che tengano, sennò qui c'è da comprare un'altra linea telefonica approfittando degli sconti domani. Allora professore, stavo dicendo, volevo partire dal Thanksgiving che rimane negli Stati Uniti, mentre noi abbiamo importato già da qualche anno il Black Friday, no? Lo shopping, questo antipasto dello shopping natalizio. Succede negli Stati Uniti che il venerdì subito successivo al giorno del ringraziamento si fanno grossi sconti, promozioni, e si chiama venerdì nero. Lei lo sa perché si chiama venerdì nero, professore? Sì, lo so, ci sono varie ipotesi, ma la più credibile è che nero sia un termine contabile, cioè il contrario di rosso, e quindi vuol dire essere inattivo, ed è un'attività geniale che gli americani si sono inventati ormai nei lontani anni 20 per seguire il giorno del ringraziamento con una sorta di grande test di mercato, quindi un giorno in cui completamente dedicato alle promozioni anche più estreme, ed è quello che oggi anche noi stiamo cominciando a... l'abbiamo trasformato in una settimana in realtà. Quindi è vero. Diciamo che ci è piaciuta la cosa. E tra l'altro, appunto, lei l'ha spiegato bene, proprio questa l'origine che aspettavo ci raccontasse il nostro Marco Valsania, visto che è nato negli Stati Uniti, nel senso che si pensava, per molti che non sanno effettivamente da dove viene questa espressione venerdì nero, che fosse negativo. Di solito al nero diamo un'accezione piuttosto negativa, no? Oh, ho passato una giornata nera. Invece certo, è proprio questo, in senso appunto di conti, no? dei commercianti. Vediamo se Marco Valsania l'abbiamo recuperato. Marco? Sì, adesso vi sento. Ormai ci ha spiegato tutto il professor Morace, quello che dovevi spiegarci tu sul venerdì nero. Senti, prova a dire anche la tua versione. Prova a dire la tua versione. Se volete posso solo aggiungervi, adesso non so se appunto già sulle origini, no, ma era nato per tutt'altre ragioni, no? È nato a Filadelfia dalle preoccupazioni della polizia di Filadelfia negli anni 50. per cui diciamo no, nei decenni era legato a una grande partita di football di college, Army versus Navy, quindi la squadra dell'esercito verso la squadra della marina, e questo portava un influsso dall'esterno della città di molta gente che creava problemi di ordine pubblico, per cui i poliziotti di Filadelfia hanno soprannominato il Black Friday, il venerdì nero. Quindi la prima origine è questa, dopodiché invece prende un'accezione positiva. Dopodiché dicevamo, negli anni Filadelfia diciamo l'ha trasformata in una diciamo così, in un momento di grande successo commerciale, vendite, e negli anni 80, ma in realtà bisogna arrivare fino agli anni 80 perché diventi veramente il Black Friday diciamo nazionale, adottato diciamo dal paese come lancio di una grande stagione, momento di vendite commerciali. Prenatalizie. Questo avviene poi appunto negli anni 80 e da allora è solo cresciuto, perché poi si è aggiunto dopo il Black, non sono mai riusciti a cambiare il nome, la connotazione Black diciamo così negativa. Ci hanno provato, avevano provato alcuni commercianti a ribattezzarlo Big Friday, ma non ha mai attecchito, no? Grande Friday, è rimasto Black Friday, però appunto con una connotazione appunto consumeristica. Di contabilità, come diceva il professor Morace. Esatto. Grazie Marco Valsena, noi ti lasciamo il tuo tacchino, che mi sa che tu ti sei perso perché sei andato a spegnere che stava bruciando, un po' questo dubbio. Diciamo che devo ogni tanto dargli un'occhiata perché appunto, come dici tu, diciamo poi gli eccessi fanno male, quindi può bruciare. Vabbè, buon shopping per domani, buon appetito intanto, Marco Valsania da New York. A voi, buona serata. Ciao Marco. Professor Morace, quindi dicevamo che noi poi l'abbiamo, come mille altre cose dagli Stati Uniti, l'abbiamo importato volentieri, no? E diceva che si allunga in realtà il venerdì e domani 24 novembre, però ci sono stati già degli anticipi e proseguirà anche dopo per approfittare, no? Per fare degli sconti anche forse conseguenti alla crisi economica che abbiamo avuto finora e che non è del tutto scemata, e quindi forse è meglio dare occasione a chi vuole fare un po' di compere di farle già con lo sconto prima della Befana, no? Sì, diciamo che a noi piace giocare d'anticipo, no? Ecco. Quindi tutte le occasioni sono buone, ma rimane valido secondo me questa idea di un grande test su come sarà la stagione natalizia e dei grandi acquisti. In realtà sappiamo dai dati che in questa settimana addirittura si spende molto di più che in quella di Natale, quindi è questo già anche in Italia. È chiaro che il digitale ha molto aiutato questo fenomeno, perché siamo, credo, un po' tutti invasi in questi giorni dagli SMS di promozioni al 70, all'80%. Ah sì, mi diceva un'ascoltatrice, non ne posso più di SMS e mail che mi stanno mandando, non ci andrò per dispetto, insomma, scrive, no? Sì, questo è sicuramente vero, ma c'è anche da dire che è ormai da tempo che la logica stessa dei saldi è entrata in crisi, no? Perché in fondo pensate agli outlet. Gli outlet non sono altro che dei luoghi dove hai saldi tutto l'anno, no? Ci siamo un po' tutti abituati ad abbandonare questo rito dei saldi. L'altra cosa più, diciamo, sociologica, psicologica, interessante è che nessuno più si vergogna. Mentre un tempo il saldo post-natalizio veniva quasi nascosto dalle persone e dalle famiglie perché era un po' un indice di povertà, oggi emerge il grande piacere di fare l'affare, no? Che è una cosa che ci appartiene, e quindi lo racconti anche agli amici, lo racconti nei social network, quindi proprio l'idea del bargain, come dicono gli americani, cioè di fare un affare, in realtà esprime l'intelligenza del consumatore e dell'acquirente. Già, no? con grande soddisfazione lo si dice. Vedo una stima di Confesercenti, dice che ci sarà un giro d'affari di 1,5 miliardi in Italia, 800 milioni verranno da acquisti su smartphone, dice un vero record, che poi è anche l'altra novità degli acquisti ormai da qualche tempo, no? Professore? Quindi c'è, diciamo, questo convergere dei due smart, cioè il cervello che è smart, che è intelligente e che capisce che in realtà non ha senso aspettare il Natale e spendere magari il triplo o il doppio, e dall'altro lo smartphone, cioè la possibilità di farlo con le nuove tecnologie che ci aiutano a fare questo. Quindi buon Black Friday a tutti, per chi volesse, per chi non vuole, insomma, in ogni caso che sia un buon venerdì. Grazie professor Francesco Morace, buon venerdì. Grazie. Anche a lei, nero, grazie, bianco, grazie, verde, come preferisce. Grazie, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato della tragedia di Rigopiano, abbiamo parlato della previdenza, di questo emendamento del governo per cui saranno stop all'aumento dell'età pensionabile nel 2019 per 14.600 persone. Abbiamo appena parlato anche di domani, che il venerdì nero, il Black Friday, importato dagli Stati Uniti, un anticipo degli acquisti natalizi. Adesso invece ci occupiamo del sommergibile argentino disperso ormai da diversi giorni, sono passati più di una settimana dalla scomparsa del San Juan, davanti all'assenza di qualsiasi massa metallica nella profondità dell'Oceano Atlantico, insomma le speranze sono poche. Il portavoce della Marina Argentina ha confermato che la registrazione di uno strano rumore proveniente dalle acque dove navigava l'imbarcazione la settimana fa, il 15 novembre, era stata effettivamente un'esplosione, e la Marina precisa di non avere informazioni sufficienti per dire quale potrebbe essere la causa di questa esplosione. E però insomma il 15 novembre il sottomarino si stava spostando da Ushuaia, la città più a sud del mondo in Argentina, verso Mar del Plata, quando ha riportato un guasto elettrico poco prima di scomparire. Pensate, ci sono 44 persone d'equipaggio, una donna e il resto sono tutti uomini, e insomma naturalmente potete immaginare l'ansia anche dei familiari. C'è una collaborazione internazionale per la ricerca di questo sottomarino. Ne parliamo con Alessandro Marzomagno, che è giornalista, scrittore e autore di un libro sui sommergibili che si intitola appunto Rapidi e invisibili, storie di sommergibili. Alessandro, buonasera. Buonasera, buonasera Roberta, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Leggo che questo sommergibile di fabbricazione tedesca aveva avuto un restauro radicale nel 2014, costato 12 milioni di dollari, e in quell'occasione lo scafo venne tagliato in due, i motori e le batterie sostituiti, e gli esperti dicono che questa operazione presenta molte difficoltà e che il minimo errore può rivelarsi fatale. Alessandro. Ma sì, però in genere i cantieri navali si stanno piuttosto attenti, quindi i lavori di rifacimento dei battelli sono abbastanza comuni, abbastanza sicuri, perché le tecnologie sono avanzate. Diciamo che purtroppo ogni tanto accadono degli incidenti. E non, è il non sarebbe il primo, insomma, no? No, il più grande qual è stato? La tragedia più grande? Il più grande è stato appunto una causa simile, probabilmente proprio qualche guasto all'alimentazione, come sembrerebbe, perché il San Juan aveva un guasto alle batterie, per cui può darsi che sia stato un guasto all'alimentazione. E nel 1963 un sommergibile americano, il Thresher, è affondato proprio per un guasto all'alimentazione, con 129 morti, e questo è il record assoluto, l'incidente a un sottomarino che ha causato più vittime. E questo battello si era appoggiato sul fondo a 2563 metri e poi è stato recuperato dagli americani. E poi che sappiamo, Alessandro, scusa, sappiamo che è proprio anche un problema, anche se rimanessero vivi, di ossigeno, perché a un certo punto finisce l'ossigeno, no? Esattamente, il secondo incidente più grave, che probabilmente molti ascoltatori ricorderanno, che era quello del Kursk, sommergibile russo, il 12 agosto del 2000, 118 morti, e dei quali però, poveracci, 23 erano rimasti vivi a bordo per alcuni giorni, e poi sono morti appunto per mancanza di ossigeno, e quindi sono stati ritrovati dei bigliettini, insomma 23 persone erano rimaste vive e non sono riuscite. Senti, ci sono stati anche due casi italiani, se non sbaglio. Assolutamente sì, è vero, e proprio con dei sopravvissuti a bordo. Uno è successo, sono successe tutte e due al largo dell'Istria, uno al largo di Pola il 6 agosto del 1928, quando un sommergibile da esercitazione, l'F-14, è stato speronato da un cacciatorpediniere italiano, il cacciatorpediniere Missori, e questo sommergibile è affondato, si è appoggiato a 40 metri di profondità, 17 persone sono rimaste vive a bordo, 10 erano morti, 17 erano rimasti vivi, e hanno aspettato sicuramente per un giorno che li recuperassero, ma poi a causa del mare in tempesta non è stato possibile. Il comandante, che si chiamava Isidoro Viel, ha anche lasciato un biglietto, e le sue parole sono nel mondo della Marina sono famose, perché scrisse: serenità a bordo, si pensa a Dio, alla famiglia, alla patria, gli anni erano quelli, attendiamo fiduciosi, e purtroppo poi la fiducia è stata tradita. Meno. E poi c'è un altro caso invece di guerra, questo è il sommergibile Medusa. Ma dobbiamo salutarci, quando è stato, Alessandro? 42, e qui sopravvissuti, 14 sopravvissuti a bordo, non sono riusciti a recuperarli e sono morti anche questi. Purtroppo, speriamo che in questo caso ci sia un miracolo per quello gentile.